18 e 31 minuti primi, venerdì 23 novembre 2018, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto, dopo ai noi un paio di settimane di blackout, delle ore di religione, la nostra oretta settimanale di teologia estrema. Ritorniamo, nonostante tutto, grazie per il supporto durante le due settimane, dicendo che fine avete fatto, può succedere, questioni lavorative, comunque siamo qui. Di nuovo vieppiù baldi e vigorosi. Allora, come al solito, in queste settimane succedono un sacco di cose. E quella più succosa, per te che sei antropologo, anche se in questo caso non c'entra molto il cattolicesimo, perché quello era evangelico, però è sicuramente una delle notizie del giorno di oggi. Cioè non solo di oggi. Sì, insomma, quando uscita comunque il predicatore. Diciamo che io sono commosso. Il predicatore, diciamo, per quei tre, no, perché gli ascoltatori nostri, ascoltatrici, sicuramente ci hanno fatto caso. Comunque, la storia è di un giovane predicatore evangelico sino-americano che da solo prende e sbarca sulle isole Andamane, dove ci sono, penso, uno degli ultimi due o tre popoli indigeni privi di qualsiasi contatto con la civiltà, e il cui isolamento viene mantenuto peraltro artificialmente, nel senso che si è deciso in qualche modo la comunità scientifica di evitargli ogni contatto. Ma a questo, spinto dalla sua fede evangelica, è andato lì per tentare di convertirli ed è stato preso a frecciate, nel vero senso della parola. È morto. Quindi un martire. È un martire, esatto. Oggi Avvenire, diciamo, ridacchiava su tutto questo, non lo poteva fare ufficialmente, però insomma sotto i baffi, ecco. E no, la segnaliamo perché appunto sono le questioni che ci interessano. Ma, proprio sul riscontro, sì, di la civiltà. Cosa interessante è che, no, beh, insomma, questo è interessante perché beh, il fatto è quello che dici tu. Adesso io posso solo specificare che per quanto riguarda questo, diciamo, questa comunità, che ha un villaggio di capanne in legno e foglie che si vedono da quando sorvoliamo questi luoghi, e che sono, diciamo, dei rettangoli un po' lunghi, coperti appunto di fogliame, dove vivono questi cacciatori, raccoglitori e pescatori, perché chiaramente sono in un'isola e quindi vivono prevalentemente pescatori, ovviamente. L'isola è sufficientemente grande per sostenere una comunità che evidentemente è lì da un po' di tempo, anzi lo diciamo chiaramente, quella comunità è una comunità molto speciale, perché di incontattati, questo è il termine tecnico cosiddetto, anche se diciamo di fatto sono... questi non sono incontattati, ecco, gli incontattati, cioè popoli che non sanno proprio che noi esistiamo, ci sono stime che variano da alle poche decine a poche centinaia, non è mai stato non può essere del resto certificato troppo preciso con definitivi dati quantitativi rispetto appunto alla esistenza all'interno dell'Amazzonia, in Papua Nuova Guinea, che sono le uniche due terre popolate da gruppi che vivono in una, diciamo, realtà lontanissima da quello che poi è accaduto negli ultimi 20-30 mila anni nel resto del mondo. Queste comunità appunto sono incontattate, ne veniamo a conoscenza tramite le comunità limitrofe che un po' come il telefono senza fila. Sanno dell'esistenza, e quindi noi presupponiamo che a uno, due o tre gradi di separazione dalle comunità comunque diciamo native, e che continuano a vivere nelle condizioni che conosciamo, pur molto a rischio, specialmente in Brasile, di cui forse poi diremo tra poco anche alcune cose a margine, sempre relative a questo. Così come appunto in Papua Nuova Guinea, dove invece i rischi ci sono, perché ci sono anche conflitti, ci sono problemi come tutto il mondo. Il resto, però appunto hanno, diciamo, una realtà un po' più forse garantita, anche perché le Papua Nuova Guinea, che è un posto che sta tra l'Asia e l'Oceania, Nel paradiso dei linguisti, fra l'altro. Esattamente, sono decine e decine le lingue che in questa terra antichissime ci raccontano chi siamo, da dove veniamo e dove siamo andati noi. E che quindi sono una fotografia, come dire, della storia evolutiva, certamente molto importante per conoscerci tutti come specie umana, perché come loro siamo Homo sapiens. Questo è il dato, diciamo, di partenza, perché va sgomberato qualunque discorso, diciamo, culturale, politico. Qui siamo alla radice proprio della natura umana, ecco. Il gene è quello, e uguale quindi, per esatto, tutti. Quindi siamo qui, con tutto ovviamente quello che ne consegue, cioè la questione delle differenze, che appunto ora andremo a brevemente delineare. E in queste terre, appunto, come dicevi tu, con una altissima percentuale di lingue differenti, la quale ovviamente è determinata proprio da quello che stavo per dire, mi hai appunto perfettamente anticipato, perché queste terre hanno, quelle di Papua Nuova Guinea, hanno una conformazione che è diversa, diciamo, da quella del Brasile, che è chiaramente una giungla impervia, ma sostanzialmente una grande, grandissima, vasta e incredibile pianura, o almeno in termini paragonabili qui c'è quello che è la Nuova Guinea, dove invece vi sono montagne come il Monte Bianco, ma senza neve, perché coperte di giungla, perché siamo tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico, quindi sono ai lati, ci sono questi due grandi immensi oceani, e il clima ovviamente è quello subtropicale e tropicale, perché sono appunto molto vaste queste aree, anche se le cartine che voi osservate tutti essendo proiettate tendenzialmente col modello Mercatore, deformano. Come abbiamo già detto tanto tempo fa in una puntata, quando parlammo di True Sides Off, che è un sito dove appunto invece voi potete avere il mondo come vedete Mercatore, poi cliccando su ciascuna delle nazioni, dopo le potete spostare e vedete che, portandole per esempio dove siamo noi, i paesi dell'Equatore occupano molto più o spazio, del sud, dove ci sono delle deformazioni, sono molto più grandi, perché la dimensione è realistica, quindi si scopre che appunto queste terre di cui stiamo parlando sono molto più grandi di tutta la Scandinavia, per esempio. Sì, quando abbiamo scoperto che l'Algeria sono tipo 7 Italia. Esattamente. Quindi, un'impressione incredibile. Quindi, diciamo, vi invito anche a fare questo piccolo viaggio in rete cercando il sito True Sides Off, che è una pagina in cui dovete semplicemente poi scegliere di fare le vostre analisi e i confronti che vi divertono di più. Io consiglio prima di tutto di prendere il Cile e metterlo sull'Europa e vi divertirete assai. È molto divertente, quasi. È molto divertente, perché stupisce, diciamo, e fa subito capire perfettamente di cosa stiamo parlando. Dopo poi prendete la Papua Nuova Guinea, ma anche il Brasile, e lo mettete sull'Europa e vedete che, insomma, il sospetto c'è, ma è ancora più eclatante. Detto questo, dicevo, le montagne della Papua Nuova Guinea, che sono come il Brasile, quindi giungla fitta, ma anche 4.000 metri. Ciò ha consentito l'isolamento da una valle all'altra, così come è stato per lungo tempo anche qui in Europa, perché oggi noi appunto parliamo di trafori, di TAV. Il povero Ozzi invece, quando doveva passare il Brennero, non fruiva di queste tecnologie e andava a piedi, ed era impegnativo perché si trattava di fare valichi di 2-3.000 metri. Ecco, lì le cose sono analoghe, ovviamente le condizioni storiche hanno determinato una tradizione culturale che non ha sviluppato la necessità di sventrare una montagna per andare da una parte all'altra, e questo l'ha isolati. Noi invece siamo stati così travolti dalla nostra passione per la conoscenza e quindi la tecnica, e abbiamo piano piano modificato, costruendo sistemi di comunicazione fino anche appunto a giungere ai tunnel, che sono una cosa abbastanza recente, perché fine secolo, perché i romani facevano dei piccoli tunnel a mano, ma insomma 20 metri, insomma, 30 metri. Non è il San Gottardo. Ecco. No, non si tratta di decine di chilometri, come è stato per, diciamo, dall'Ottocento in poi, perché appunto la quantità di terra da muovere è tale che necessita una invenzione che è molto nota, perché c'è il signor Nobel che appunto è diventato ricco. Sì, del fatto che neanche doveva pentirsi, perché non voleva certo che fosse quello che poi è diventata la dinamite. Lui lo faceva proprio per agevolare la tragedia dei lavoratori nelle miniere e degli scavatori dei tunnel, che era pazzesca, insomma, scavavano a mano, esattamente a piccone, con dei proto martelli pneumatici all'inizio, ma insomma parliamo veramente di una vita d'inferno. anche oggi in miniera, ma più si va indietro più è veramente vero inferno, perché sì, proprio è un girone dentro la roccia. L'inferno dantesco, sì, sì, somiglia molto a una ciminiera a cielo aperto dell'Africa di oggi, dove ci lavorano a un euro e a un dollaro al giorno i reietti dell'umanità, che ci garantiscono l'uso dell'iPhone, perché lì dentro ci sono le terre rare, e va bene così, insomma, ecco, perché se dopo li paghiamo come un operaio di Seattle, è ovvio che l'iPhone ne costa 80.000 euro e non 1.000. E allora vanno tenuti così. Quindi questi popoli sono quelli incontattati davvero, quelli, diciamo, le popolazioni delle cosiddette tribù, diciamo, della Nuova Guinea in particolare, sappiamo che sono molte quelle che non conoscono la nostra civiltà. E mentre invece gli abitanti dell'isola di cui qui oggi stiamo raccontando brevemente la vicenda sanno che in qualche modo esistiamo, perché hanno visto i navigatori inglesi. Questa è un'isola che, insomma, è al largo dell'India, quindi era una zona in cui l'India in quel periodo era un possedimento britannico, e quindi non c'era certamente una frequentazione tale che somigliasse a Via Condotti a Natale, ma certamente un certo viavai di navi per alcuni secoli era sicuramente una realtà che tutte quelle popolazioni, che all'epoca appunto erano molte quelle incontattate, ebbero a conoscere i marinai inglesi. Un piccolo naufragio ne condusse un gruppo di un centinaio nella metà dell'Ottocento, mi sembra nel 1863 o 65, non ricordo bene, perché questo, diciamo, queste storie di queste terre risalgono ai miei studi di tanto tempo fa, che di quando appunto mi sono interessato da non addetto ai lavori, perché come antropologo mi occupo di altro, di quello che altri colleghi invece hanno fatto sugli studi di quelle zone, appunto Papua Nuova Guinea, l'Oceania, le isole del Pacifico e questa grande area dell'Indonesia, della Thailandia, che hanno una storia antichissima e nella quale appunto fino a non troppo tempo fa sopravvivevano ancora molte popolazioni che man mano con la colonizzazione del XVIII secolo, in particolare del XIX, che è stata molto massiccia per il grande miglioramento tecnologico della costruzione delle navi, che consentivano equipaggi più grandi, più numerosi, viaggi più lunghi, sicuri più o meno, insomma, perché vi erano appunto delle conoscenze che nel secolo precedente, tutto il XVI, in particolare il XVII, avevano consentito uno sviluppo enorme, diciamo, della marineria. Per cui stiamo parlando semplicemente del fatto che le caravelle di Colombo erano delle bagnarole praticamente in confronto a quelle che navigavano nel XVIII e XIX secolo, quando addirittura poi compare il vapore e quindi le navi si trasformano ulteriormente, ma a quel punto cambia anche lo scenario, perché quando il vapore prende piede e si arriva alle grandi navi metalliche, diciamo, che conosciamo, il mondo è ormai praticamente globalizzato. E quindi restano queste popolazioni. Dicevo che questi abitanti che conosciamo, di cui abbiamo avuto notizia a seguito di questa vicenda, hanno visto questo naufragio, diciamo, davanti alle loro coste e sbarcare questo gruppo di un centinaio di inglesi, che è stato attaccato ovviamente. I britannici erano dotati comunque di mezzi per difendersi, sono riusciti a sopravvivere diverse settimane o forse qualche mese, non ricordo, e poi sono stati recuperati da un'altra nave, perché ripeto c'era un via vai ma non quotidiano, diciamo, e anche i soccorsi, ammesso e non concesso che insomma qualcuno avesse deciso di vedere che fine avevano fatto perché non erano tornati, e impiegavano comunque mesi per poter essere, come dire, in zona, a zona operativa. Quindi loro, diciamo, in qualche modo sanno che esistono delle navi molto grandi o comunque delle, diciamo, che passano in lontananza. Esatto, da tempo, e con delle persone come noi, come loro, che però per loro sono degli invasori, chiaramente, punto. Io dico questo perché non sappiamo bene cosa pensano di noi, in quanto non sono stati sostanzialmente mai intervistati, uso il termine, come dire, tecnicamente, perché non è un'intervista come noi ne vediamo a un talk show, ma è un modo diverso, diciamo, per interagire e cercare di conoscere. Ovviamente nell'ambito delle scienze, diciamo, etnoantropologiche contemporanee si fa molto, si riflette molto su come rapportarsi a queste popolazioni. Anzi, come ricordavi esattamente tu, l'Organizzazione Internazionale che difende i diritti dei popoli indigeni ha deciso che sostanzialmente bisogna non intervenire, isolare ovviamente queste, isolare nel senso lasciare che siano isolate, perché noi non facciamo niente, semplicemente non andiamo, non è che le circondiamo con dei muri o delle, i blocco navale. Esattamente, semplicemente non facciamo delle mosse così invasive, tutto qua, quindi siamo noi che ci limitiamo, loro rimangono dove sono. Il problema che si pone, tra i tanti ovviamente, più urgente è anche con queste, in particolare di quest'isola, perché un'isola è molto più come dire accessibile essendo lì in mezzo al mare, insomma, infatti si conosce e non ci si va perché è vietato, e anche perché appunto questi abitanti sono proprio per questo, che sanno chi siamo, sono rimasti armati e forse anzi sono, è aumentata in loro nei secoli, come dire, il bisogno di mantenere un piccolo apparato, diciamo, militare contro eventuali invasori. Esattamente, perché hanno la sensazione di essere attaccati comunque da altre genti che da altrove arrivano, con navi molto grandi. Loro navigano, perché abbiamo detto che sono pescatori, hanno delle canoe a bilanciere, quelle che abbiamo visto in tanti documentari degli anni 60-70 di Jacques Cousteau o Quilici o dello altri, catamarano. Esattamente, come il catamarano, esatto, per dire che insomma è una macchina antichissima. Tutti i polinesiani hanno usato queste tecnologie per colonizzare il Pacifico, quindi navigando molti secoli prima di Colombo, in un mare che è ben più grande dell'Atlantico, che con le bagnarole barcò Colombo. Questo per dire la grandezza. Niente. Esatto, che questo per dire la grandezza del popolo polinesiano, che invece che è stato un po' così quasi dimenticato, è stato riscoperto da poco, e sono oggettivamente, quando si fanno queste così classifiche un po' da salotto per chiacchierare tra amici, sicuramente il popolo dei più grandi navigatori della storia dell'umanità. Poi certo ci sono gli italiani, i vichinghi, i vichinghi e gli inglesi sicuramente, che hanno una grande storia, ma dopo, e soprattutto in mari che in confronto a quello che con quelle grandi canoe a bilanciere hanno affrontato i polinesiani, poi colonizzando come i greci di isola in isola tutte le isole fino alle Hawaii, e questo lo sappiamo dalle lingue, dal fatto che comunque ci sono dei legami col BNA, oggi negli ultimi 30 anni gli studi ci hanno aperto un mondo, gli dobbiamo riconoscere questa patente oggettiva di più grandi navigatori della storia dell'umanità. Quindi grande onore al popolo polinesiano, che è un termine molto ampio ovviamente, quindi lo uso col beneficio di inventario, perché quasi non esiste, diciamo, insomma, perché si evolve, ma sicuramente ha una, invece anche una storia di continuità. Ecco, che è collegata con questi gli abitanti di quest'isola, perché loro sono lì da 50.000 anni, cioè sono arrivati con la prima diciamo grande ondata, le prime grandi ondate cosiddette Out of Africa, ancora non abbiamo anche qui delle informazioni precise, tutta sono delle ipotesi, precise, esatto, cioè. Sono delle ipotesi, non sappiamo certamente i dettagli, perché non ci sono tracce visibili, o se ci sono veramente molto più flebili di un'ombra. Che ci dicono che come appunto gli aborigeni, che sono poi arrivati passando costa a costa in un clima completamente diverso, dove molte isole non erano isole, perché parliamo di un'epoca preglaciale, quindi parliamo di prima del film l'era glaciale, per capirci, che invece molto più vicino a noi rispetto a questa ondata di sapiens, cioè noi, che ha popolato queste terre. C'erano anche altri ominidi, in realtà, perché dalle ondate precedenti erano usciti altri non sapiens, e anche questo lo sappiamo, perché finalmente abbiamo la certezza che tutta una serie di resti che abbiamo trovato, e forse ne troveremo ancora, ci dicono che c'erano almeno altre 3-4 specie, tipologie, di ominidi, che non hanno però appunto saputo resistere all'ambiente che hanno trovato, e si sono estinte in qualche modo. Nel caso dei Neanderthal noi addirittura invece abbiamo anche fatto in tempo a incrociarci perché siamo interspecifici, quindi vuol dire che con i Neanderthal abbiamo il 99,9% di DNA in comune, e infatti abbiamo un po' di DNA in comune anche noi, alcuni di noi dell'Occidente, del mondo orientale, dell'Oriente asiatico. Perché non lo troviamo invece negli africani? Perché gli africani che sono rimasti lì, gli savi sono rimasti lì, si sono evoluti e non si sono incontrati con i Neanderthal, che nel frattempo si sono estinti, quindi non troviamo il DNA. Questo l'ho detto già una volta, perché volevo ricollegare al delirio della purezza occidentale europea, che a un certo punto arriva al massimo della sua espressione di follia, senza nessun senso, con il nazismo, quindi la pura razza ariana. Ecco, se dovessimo proprio considerare che chi sono i più puri della specie degli Homo sapiens, sono gli africani. Sono in Sudan, ecco, fra il Sudan e il Kenya. È quell'area lì. Quindi tanto per così, vuole essere, questo non ha alcun senso, no, perché non c'è purezza. A voler dare. A voler stabilire, come dire, una cosa che non ha senso, ma provandoci, bene, volendo, sono gli africani. Quindi, così, come dire, la scienza, che ha tutti i problemi perché in sé è pura, ma l'uomo invece no, la può manipolare a suo piacimento, ma il dato scientifico che preesiste alla nostra osservazione è oggettivo. Quindi una pianta cresce anche quando noi non ci siamo, infatti c'erano le piante prima degli uomini, noi dobbiamo solo capire come. L'abbiamo capito, all'inizio pensavamo che ci fossero delle cose un po' magiche, degli dei, poi abbiamo scoperto che c'è la radice, la linfa, c'è l'ossigeno, l'azoto, il seme, la clorofilla, la fotosintesi, insomma, attenzione. E questa è la biologia, la botanica in particolare, uno dei più grandi botanici, in realtà noi uno, il padre della botanica è Teofrasto, allievo di Aristotele, Leucippo e Platone, in particolare allievo diretto di Aristotele, forse pure più grande di questi tre messi insieme come scienziato, proprio perché noi abbiamo spesso sopravvalutato i nostri grandi, sicuramente pare Platone e Aristotele, certamente nulla toglie alla grandezza della loro speculazione filosofica, ma il deficit scientifico in Aristotele meno, ma anche lui poi viene travolto dal suo platonismo, invece in Teofrasto non c'è, e da lui sappiamo appunto tante cose, in particolare è quello che fa cataloga. Stiamo parlando esattamente le piante, quindi è il padre della botanica, e lo fa né più né meno come poi tornerà di nuovo in chiave veramente scientifica nel Settecento, con in mezzo, perché la quindi botanica 2000 anni esatto, con in mezzo però una botanica comunque ancora, diciamo, perché la botanica è la scienza che rimane un po' scienza anche in una fase in cui non c'è il metodo scientifico, però ci devi avere a che fare, quindi tutti i grandi medievali che lavoravano sulle piante, per i contadini stessi, erano esperti di botanica, ma in un modo così un po' particolare, molto personale, di esperienza empirica, e spesso molte cose erano giuste, solo che mescolate a delle credenze del tutto assurde. Quindi pensare che la luna possa avere effetto sull'uva può apparire credibile a certe condizioni, perché effettivamente poi il prodotto, diciamo, cresce comunque, solo che poi quando noi facciamo la verifica scopriamo che cresce comunque indipendentemente dal giorno e dalla luna. Però più o meno nell'ottavo secolo però era difficile, esatto. Il problema è che oggi qualcuno continua a credere questo, ma come dire, questo è un altro diciamo, si chiama biodinamica, mi sembra, e che è stregoneria, ovviamente, come è stato ampiamente detto in un bell'articolo di una collega scienziata. Ma chi vuole credere, purtroppo, è un po' come, e questo ci riguarda, come anche l'altro credere di cui noi parliamo da tanti anni. E non, la credenza non è soltanto Gesù bambino, visto che siamo in clima natalizio, ma ci sono altre credenze, e probabilmente anche più nefaste. Perché poi meno esplicite, esattamente, se sei a casa tua ti fai un presepio non succede niente. Certo, se decidi di convertire un popolo come i nostri abitanti dell'isoletta delle Andamane, vabbè, me lo cerchiamo, me lo cerchi per favore, perché e prendono il nome dall'isola, ovviamente, perché noi non lo sappiamo come loro si chiamano, e probabilmente non si chiamano, perché si chiameranno uomini nella loro... Sì, diciamo, si chiamano generalmente, questi popoli si autodefiniscono all'interno dell'ambiente in cui vivono, insomma, perché non hanno bisogno di rapportarsi a un'alterità che non c'è, perché sono gli unici, diciamo, padroni dell'isola. Mi viene un nome, ma mi sembra quelli di Star Trek, che non, insomma, un popolo che i sentinelesi. Delle isole Sentinelle, bravo, mi veniva i Simulani, però appunto io poi non me l'ho detto perché finivo in una puntata di Star Trek. I Sentinelle, che pure Sentinellesi, insomma, volendo può essere un nome, no? Ce ne hanno talmente tanti di alieni, no, invece esistono, dicevo, appunto loro sono lì da 50.000 anni, come appunto da un periodo analogo erano presenti gli aborigeni incontrati da Cook, ma anche da altri navigatori, e con la loro storia complessa di scambio e relazione, nel quale hanno perduto visibilmente, diciamo, il controllo della terra che avevano occupato decine di migliaia. Il problema della tecnologia in quel caso ebbe era fondamentale, diciamo, la meglio. E questi si poi Cook non si portava dietro così dei gigli di campo, ecco, per fare le sue esplorazioni. E poi anche quando hanno deciso di colonizzare quella che è l'Australia, non si sono portati dietro la crema, diciamo, della civiltà inglese, ma detenuti che non potevano più così mantenere, e hanno detto vabbè, mandiamoli. Sì, e comunque se tornate vi ammazziamo. Anche se anche... non è vero che sono tutti, diciamo, eredi di questi detenuti, perché mi sembra che fosse il 30% dei coloni, quello di così prostitute e detenuti, ma perché c'è era una illegalità che determinava questo spostamento esiliaco, diciamo, sì, verso queste terre, e anche altri volenterosi, ma abbastanza, come dire, rozzi da affrontare una terra che penso sia la più impervia del pianeta adesso, ancora oggi, pensate, un secolo e mezzo fa che cosa doveva. E quindi questi invece abitanti di quest'isola, come ho detto, ci conoscono per questo motivo, hanno soprattutto ci conoscono ancora oggi, perché non sappiamo come nella loro tradizione orale abbiano tramandato, forse con la vicenda che ho raccontato, che è sicuramente la più significativa, perché sono rimasti per molte settimane questi inglesi difesi da loro stessi con qualche fucile, probabilmente per tentare di accendere i soccorsi che fortunatamente per loro sono arrivati. Lì poi, diciamo, quelle isole sono state indicate come appunto da evitare, insomma, e comunque non c'era un grande interesse, ecco, perché era una questa isola, anzi l'isola ancora oggi, però, anzi proprio in questi giorni prima di questo evento, io stesso mi ricordo che giorni, nel senso nell'arco di quest'ultimo anno, mentre così ho letto una serie di articoli su questioni analoghe a questi temi, mi sono imbattuto proprio in un link, in un articolo che non ricordo, che mi rimandava proprio all'associazione che tutela i diritti dei popoli indigeni, che segnalava proprio il rischio di come questa tribù avesse problemi con i pescatori di frodo, perché i pescatori di frodo, che sono un po', diciamo, non sono legati alla storia del Signore degli Anelli, però sono invece perdonatemi, ma noi abbiamo bisogno di tanto, così, di, se no sembra troppo serio.